freddo dentro blocca la mia anima, il sole invece asciuga ogni lacrima, spesso duro per tutta questa gente, farei di tutto per non essere perdente, una vita a rincorrere ogni successo, le notti in bianco al freddo e depresso, la penna stretta forte nella mia mano, come una mamma col figlio appena nato, ogni pensiero da me si è allontanato, abbinandolo a scrivere con il cantato, la vita è fatta di scelte e io l'ho fatta, non vedermi perdente perché ce l'ho fatta, le favole lasciate tra banchi di scuola, qui troverai chi sono in ogni parola, io so cosa ho fatto nella mia vita, ho vinto quando ho iniziato la salita, ferite che non posso rimarginare, che mi hanno fatto crescere, poco sognare, tutto ciò che so senza doppi fini, ho sbagliato per poi contare su me stesso e il risultato è tutto ciò che sono adesso, non conto fino a 10 per poter parlare, ma per le palle che mi trovo qui ad ascoltare, non ho vinto soprattutto nella mia vita, ma la speranza io non l'ho mai tradita, perché è semplice scrivere ciò che non sei, invece della mia vita non mentirei, queste strofe sono il passaggio tra due mondi e l'ultimo lo cancello in 2 secondi, dormo sempre poco e resto a pensare che spesso è così semplice rinunciare, quindi prendo atto di tutta questa notte e parlo di me con i segni delle botte, io so cosa ho fatto nella mia vita.